Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Il tema della pensione è un tema che ci sta molto molto a cuore. Oggi è di nuovo sulle pagine di tutti i giornali perché ieri con il documento di programmazione economico-finanziaria varato dal governo è stato preso il provvedimento di cui si parlava da tempo, l'innalzamento che sarà graduale dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego e l'adeguamento per tutti dal 2015 in relazione all'allungamento della vita media. Il settore sia dal punto di vista pubblico che privato ha registrato diverse modifiche negli ultimi anni, è il classico cantiere sempre aperto. Oggi abbiamo deciso di aprire una finestra di nuovo su questo tema, ma in particolar modo di aprirla su una categoria sociale della quale in termini previdenziali si parla molto poco, per non dire praticamente nulla. Le donne che non lavorano fuori casa naturalmente, ma che invece in casa ne hanno fin troppo di lavoro. Parliamo delle casalinghe, un esercito di 8 milioni di donne ufficialmente censite, per le quali il futuro previdenziale è sempre una nebulosa prospettiva se non si ha un marito in grado con la sua pensione di mantenerle e se non si è avuta la possibilità di attivarsi con uno strumento previdenziale privato nel corso della propria vita. Se non si ha la possibilità, perché non se l'ha? Non si ha la possibilità di attivare uno strumento privato perché alimentarlo è dura, e a dimostrazione di questo l'avvenuta liquidazione nei mesi scorsi del Fondo Pensione Famiglia, che era nato proprio con lo spirito di permettere la creazione di una pensione a chi non lavora. Ora cosa è successo? Che tutte le posizioni di quel fondo, di questo fondo liquidato, sono in corso di trasferimento, anzi sono state quasi praticamente completamente trasferite su un altro fondo pensione, perché l'associazione Feder Casalinghe ha selezionato per questa operazione il gruppo Arca SGR, il suo fondo pensione aperto. È una vicenda un po' complicata, per chi non la conosce noi stamattina ve la rispiegheremo, ma soprattutto cercheremo di focalizzare la nostra attenzione sulla costruzione di una posizione previdenziale per le donne che lavorano in casa e non hanno appunto la possibilità di così costruirsi la pensione propria, almeno dal punto di vista privato naturalmente. E allora con chi ne parleremo? Con le dirette interessate, intanto con Federica Rossi Gasparrini, o dovrei meglio dire presidente della Donne Europee Feder Casalinghe. Onorevole Federica Rossi Gasparrini, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi e grazie anche a Marina Vago, responsabile marketing di Arca SGR. Stamattina sarà il caldo, l'ho patata in bocca, non riesco neanche a parlare. Benvenuta. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Insomma, cade il tutto casualmente, trasmissione al femminile peraltro, però insomma siamo ben contente anche di questo, e ovviamente vorremmo proprio che siano le vostre telefonate ad alimentare non tanto i fondi pensione, le polizze di cui vorremmo parlare stamattina, quanto invece la nostra trasmissione, con le vostre curiosità, le vostre domande anche relativamente al fondo di cui parliamo questa mattina. 800 24 00 24 è il numero verde per chiamarci, 349 238 6666 il numero invece che potete utilizzare per scriverci dei messaggi. La borsa, abbiamo già dato delle indicazioni nel corso del giornale radio, ci tornerei abbastanza rapidamente, abbiamo un quadro incerto, stamattina abbastanza naturale visti i rialzi degli ultimi giorni che sono seguiti alle buone trimestrali che sono arrivate dagli Stati Uniti. Milano sta perdendo lo 0,2% sul FTSE MIB, oggi arrivano altre trimestrali, JP Morgan, IBM, Google, ma soprattutto una raffica di notizie economiche dagli Stati Uniti, l'indice Philadelphia Fed, i sussidi settimanali di disoccupazione. Ancora una volta avremo delle indicazioni su come sta andando l'economia americana. In tutto questo, tra l'altro, stamattina ha ripreso a correre l'euro sul dollaro, è a 1,4080 il rapporto di cambio adesso. Piazza Affari punta su Fiat più 3,54%, su Impregilo più 1,33%, Autogrill più 1,28%, un più 0,7%, lo mettono a segno Geox, Prismian e Fondiaria. È in corso di svolgimento l'assemblea degli azionisti di Alleanza per dare il via libera alla fusione per incorporazione in generali. I titoli sono in rialzo di 0,5 percentuale, perdite di 2,5 punti per il Banco Popolare, meno 1,81 per STM, che è andata molto bene ieri e l'altro ieri appunto dopo i dati di Intel. Buzzi Unicem meno 1,63, Enel meno 1,59, e abbiamo un ribasso di circa 1,5 punti anche per Tenaris e Bulgari. Borse da parte, andiamo subito al tema di questa mattina, la previdenza e le casalinghe. Mentre Mentre il governo discute sull'innalzamento graduale dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, esiste una larga fetta di lavoratrici dedite alla famiglia che sembra essere ancora in cerca di una direzione da prendere in campo previdenziale. Si tratta di una platea considerevole, composta da circa 8 milioni di casalinghe, potenzialmente interessate a strumenti per costituire una pensione su cui poter contare in futuro. Tuttavia, dati alla mano, sono ancora poche coloro che ad oggi hanno dimostrato di comprendere l'importanza di crearsi una pensione integrativa. Se esiste la possibilità di sottoscrivere polizze o aderire a fondi pensione aperti, da tradurre in rendita una volta che si avrà la necessità di liquidità, esistono infatti anche strumenti studiati ad hoc per il popolo delle casalinghe. Anche se dalla loro introduzione ad oggi non sembrano aver avuto ancora molto successo. Dopo il flop del fondo IMSS nato circa 11 anni fa e che a inizio 2008 contava poco più di 1.100 casalinghe contribuenti, anche il fondo complementare Fondo Pensione Famiglia, rivolto a casalinghe, studenti e lavoratori atipici, si è rivelato un buco nell'acqua. Tanto che nell'ottobre 2008 è stato messo in liquidazione e ha ceduto il posto al Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza, selezionato da Donne Europee Federcasalinghe, per consentire così alle oltre 800.000 associate di proseguire o di avviare la formazione di un trattamento pensionistico complementare. Trattamento che prevede, tra l'altro, la possibilità di continuare ad usufruire della scontistica presso i punti vendita convenzionati con l'associazione, già contemplata dal Fondo Pensione Famiglia. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi. Vedo già che stanno arrivando delle telefonate e vedo già che sono di uomini. Mi piacerebbe sollecitare le donne stamattina che si interessassero di questo problema in prima persona. 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Ovviamente coglieremo anche le telefonate dei signori, ci mancherebbe altro. Volevo tra l'altro far così un po' porre l'attenzione anche su un'inchiesta che è stata pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore, proprio a commento della decisione presa ieri dal governo sull'innalzamento dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, tema del quale si parla da tempo, perché sono gli organismi europei che ci hanno imposto di metterci in regola con il resto d'Europa su questo. Ma c'è, a corredo appunto del resoconto sulla riunione di ieri del governo e del varo del DPF, anche questa indagine dell'ISFOL pubblicata appunto dal Sole 24 Ore, secondo la quale dopo la maternità una donna su 9 esce dal mercato del lavoro. Le donne lavoratrici comprese nella fascia fra 30 e 40 anni sono quelle che soffrono di più questa condizione. Il tema è quando ci rientrano e se ci rientrano soprattutto. Onorevole Rossi Gasparrini, e qui ovviamente amplieremo notevolmente il raggio d'azione della nostra trasmissione di questa mattina, però è un tema da affrontare perché molte decidono non possono rientrare nel mondo del lavoro e pertanto costruirsi una pensione diventa un sogno, un miraggio, insomma qualcosa di impossibile. Certo, perché non hanno reddito. E diciamo, se le stanno chiamando gli uomini, su questo tema gli uomini sono interlocutori importanti, perché chiaramente un fondo pensione per una donna casalinga che quindi lavora ma non ha un reddito sul lavoro che produce, se investire o no lo decidono insieme, ma è importante la voce del marito. Col fondo famiglia noi abbiamo incontrato parecchi mariti intelligenti che hanno investito sul futuro delle loro mogli, sapendo fra l'altro che i fondi pensioni complementari hanno una deducibilità alta. Ma sull'età pensionabile 65 anni, diciamo questo, che gli altri paesi europei hanno politiche familiari vere, non parlate, perché l'Italia parla, ma fa poco. Per esempio le donne quando assistono e seguono i bambini, ma anche un familiare che ha un periodo di grave malattia, riescono ad avere le coperture diciamo previdenziali garantite dallo Stato, quindi quel periodo non lo perdono. In più hanno, ad esempio la Germania, 5.000 euro può una donna lavorare senza che questo le comporti nessun costo. Cioè, bisogna cambiare un po' questo paese che penalizza le mamme che perché sono lontane dalla famiglia, perché vogliono seguire i loro figli direttamente, devono lasciare il lavoro. Insomma, non possono rientrare, non possono pagarsi la pensione. Per noi costituire per loro un fondo pensione è stato un momento di orgoglio, di affetto, per dire siete lavoratrici, avete diritto agli strumenti che hanno gli altri. Poi però lì ci siamo un po' fermati. Esatto, questo fondo pensione famiglia che citava la Presidente Rossi Gasparrini ha avuto un'evoluzione che è stata positiva, poi si è arenato, adesso ne spiegheremo anche i motivi. Detto questo, sull'attenzione del governo intorno alle problematiche che la Presidente Rossi Gasparrini sollevava, ci sembra anche che ci sia, c'è il Ministero per le Pari Opportunità che sta portando avanti tutto il discorso delle Tagesmutter, degli asili nido condominiali per poter permettere appunto alle donne di lavorare e contemporaneamente prendersi cura dei propri figli. È un discorso però molto ampio, bisognerebbe rivoluzionare il nostro sistema di welfare in Italia, tema che io sono sicura che tutti hanno a cuore, ma è che in questo momento non ci sono molto le condizioni economiche per potersi permettere di intervenire, credo, radicalmente intorno a questo settore. Magari speriamo, insomma, prossimamente usciti fuori dalla crisi. Esatto. Mamma di giorno si può fare. La mamma di giorno si può fare, quella sta partendo perché il governo ha già stanziato, credo, tutti i fondi che erano necessari per partire con quell'iniziativa. Però oggi noi parliamo di pensione, quindi di qualcosa che ci interessa nel futuro, ma che bisogna costruire in tempi invece molto anticipati rispetto a quando poi il problema ci accorgiamo che esiste, perché molte donne, Marina Vago, prima di entrare nel tema del fondo pensione di Arca SGR che è stato appunto che è l'oggetto della nostra conversazione, il tema è che come anche ci suggerivano alcune lettere che sono arrivate al Sole 24 Ore che ho ritrovato documentandomi su questo tema, molte donne scoprono ad un certo punto della propria vita che sarebbe stato possibile anche per loro, anche avendo fatto a tempo pieno la mamma e quindi la moglie, che avrebbero potuto costruirsi una pensione complementare, ma lo scoprono troppo tardi, non c'è nessun tipo di informazione intorno a questo. Sì, l'onorevole Gasparrini ha fatto un interessante parallelo con gli altri paesi evoluti e direi che dettaglio in più è da fare sulla cultura previdenziale italiana. In Italia in generale noi ovviamente riscontriamo un interesse, una cultura per la previdenza integrativa molto più bassa rispetto agli altri paesi innanzitutto europei e ormai è un dato di fatto che la pensione pubblica, sia essa erogata dall'INPS o da altri enti pubblici, non sarà più sufficiente per poter al momento del pensionamento avere un tenore di vita decoroso, appropriato rispetto a quello che era il tenore di vita ante pensionamento. Ormai per tutti i lavoratori è un dato di fatto questa necessità. Ebbene, Arca SGR ha sempre offerto con il proprio fondo pensione una risposta a due target principali di lavoratori, che sono i lavoratori autonomi professionisti e i lavoratori dipendenti, che hanno ovviamente sono stati protagonisti nel famoso semestre del 2007 inerente proprio alla scelta di destinazione del TFR. Ebbene, oggi mi fa piacere poter sottolineare con enfasi il fatto che rivolgiamo la nostra attenzione anche ad un altro target, che è quello delle casalinghe. L'accordo proprio realizzato con Federcasalinghe è un accordo molto importante perché va al di là semplicemente dell'offerta di un fondo pensione a potenziali utenti, ma soprattutto significa una risposta a quel target di lavoratrici che effettivamente per il particolare contesto in cui è inserito difficilmente ha avuto modo di confrontarsi sulla tematica della previdenza, ma che ne ha più bisogno proprio perché ovviamente ha ancora maggiore necessità di tutelare il proprio futuro. In questo fondo pensione famiglia che è stato appunto che è il fondo di Arca SGR, peraltro Marina Vago, per correttezza diciamolo, non è stato un fondo appositamente istituito in virtù dell'accordo con Donne Europee Federcasalinghe, è il vostro prodotto, è il prodotto di casa SGR, certo, di Arca SGR appunto, che è stato invece costruito proprio in virtù della riforma del TFR di cui stavamo parlando un attimo fa. Diciamo che è stato tra i primi fondi pensioni istituiti in Italia e nell'ambito della riforma del semestre appunto della riforma della previdenza a cui accennavo prima ha svolto un ruolo da protagonista perché ovviamente anche in questo ambito è riuscito a realizzare il maggior numero di accordi con le aziende e a raccogliere le maggiori adesioni proprio dei lavoratori sulla base di accordi collettivi che hanno conferito il proprio TFR. Presidente Rossi Gasparrini, allora il fondo pensione famiglia appunto è l'opportunità che adesso hanno le casalinghe italiane per costruirsi una pensione complementare e che avevano aderito, anzi il fondo pensione famiglia è quello precedente, quello che è andato in liquidazione, quello di Arca si chiama Fondo Pensione Aperto, Arca Previdenza, quindi è una cosa diversa, siamo chiari su questo, scusate per la confusione. Il vostro Fondo Pensione Famiglia è andato in liquidazione lo scorso inverno, quante casalinghe avevano scelto questo strumento previdenziale e quante hanno scelto di trasferire quindi la propria posizione nella gestione di Arca e quante invece hanno deciso di uscire? Per diffidenza, non so, ecco. Erano poche perché noi volevamo prima strutturare bene il fondo, erano 15.000. Molte di queste posizioni però erano piccole proprio per la difficoltà di chi non ha un reddito certo di poter pagare un fondo, anche se il nostro fondo, che ha mantenuto le stesse caratteristiche in Arca, non impone un pagamento fisso, ma accetta che chi entra nel fondo versi i propri risparmi quando può e come può, però la platea era in gran parte di persone che avevano versato poco e per questo è stato meglio la liquidazione, anche perché ricordiamoci che un anno fa c'era il panico sul problema economico. Invece chi era entrato nel fondo con convincimento proprio di farsi la pensione e non solo il salvadanaio, ecco, queste sono il 95% passate ad Arca. Noi con Arca abbiamo una scelta che per l'associazione è importante, proprio nella speranza di costruire un futuro per queste donne che lasciano il lavoro per qualsiasi motivo, e si muove su due piani. Uno è quello di aiutarle a trovare un'occupazione nei tempi che loro hanno a disposizione. Finalmente il governo ci ha dato il lavoro accessorio, il lavoro occasionale come opportunità di rientro nel mondo del lavoro, e noi abbiamo chiesto e ottenuto di diventare agenzia di lavoro, proprio per mettere in collegamento chi cerca lavoro e chi invece ha bisogno di un'espressione lavorativa. Certo, quindi nel momento in cui è nel mondo del lavoro poi anche si può porre il problema di alimentare eventualmente il fondo pensione, esatto, che peraltro ha anche una modalità di contribuzione, poi questa la spieghiamo bene nella seconda parte di Salvadanaio, perché è una questione molto originale, ha una modalità di contribuzione mediante anche scontistica presso i centri commerciali, per cui anche andando a fare la spesa si può alimentare il fondo pensione, e adesso ne parleremo. Vi faccio però intanto ascoltare una domanda di un ascoltatore, poi magari gli rispondiamo nella seconda parte di Salvadanaio, forse ce la facciamo anche qua. Enzo da Novara inaugura le chiamate di questa mattina, benvenuto. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Enzo. Pronto? Sì, grazie, ci siamo Enzo. Sì, ecco, io volevo dire questo. Dunque, mia moglie ha lavorato per 8 anni in un'azienda, in un'impresa di pulizie. Poi nel frattempo sono nati 2 figli e lei ha dovuto lasciare il lavoro, quindi attualmente si trova senza lavoro da 10 anni. Mm-hmm. Ecco, volevo sapere questo, se gli anni che ha versato, in quegli 8 anni che ha versato, si possono ricongiungere eventualmente con l'integrazione appunto della pensione appunto per le casalinghe. Ecco, ammettendo Enzo che lei la volesse aiutare magari a costruirle questo fondo pensione di cui anche stiamo parlando questa mattina, o un altro strumento di previdenza, insomma, se si possono mettere insieme le due cose. Allora sentiamo un po' la Presidente Rossa Gasparrini se ci può dare una mano, perché io credo che il caso che ci ha raccontato Enzo da Novara sia quanto di più rappresentativo potessimo ascoltare questa mattina. Molto ampio e diffuso. E purtroppo in questo momento non abbiamo risposte concrete per Enzo e sua moglie. La battaglia è di norma, di legge, che permetta a chi è sotto un certo livello di versamento di poter recuperare la cifra versata all'INPS o all'istituto di riferimento, purché sia condizionata al passaggio in un fondo complementare di categoria. Bisogna combattere per questo, perché il fondo attuale IMSS è assolutamente inavvicinabile, perché non dà i soldi che si versano, quelli si ritrovano più o meno dopo 20 anni. Infatti, quindi, il fondo, il famoso, per imparare a dire le verità. Le verità è che per 8 anni oggi non c'è nessuna misura di sostegno, stiamo combattendo per averla. E insomma, questa signora è come se avesse buttato via 8 anni di lavoro, perché Insomma, l'obiettivo potrebbe essere proprio quello di rendere compatibili questi 8 anni eventualmente con un altro strumento di previdenza privato, come dicevamo, ma mi pare ancora anche questo un miraggio al momento. Chissà, insomma, se per questa ascoltatrice si può aprire questa opportunità. Eccoci ritrovati in diretta. Il tema scelto questa mattina a Salvadanaio: la pensione per le casalinghe, donne che lavorano per tutta la vita, doppio lavoro, triplo lavoro, direi, perché prendersi cura di figli e marito non è che sia esattamente, per quanto possa portare una grande felicità a molte di noi, ma non è che sia esattamente un impegno da sottovalutare, ma di fatto poi si rimane con un bel niente al termine della propria vita anagrafica, perché non si ha la pensione, si ha un modestissimo assegno sociale. Insomma, bisognerebbe invece permettere a queste donne di mantenere un decoroso stile di vita per gli anni che diventano più duri, quando si ha bisogno della massima assistenza sanitaria, si ha bisogno appunto di ricorrere a molte cure. Allora, questo tema se lo è posto da tempo l'associazione Federcasalinghe, oggi Donne Europee Federcasalinghe, che ha attivato negli anni passati il fondo pensione famiglia. Poi, per tutta una serie di problematiche che abbiamo spiegato nella prima parte di Salvadanaio, questo fondo è stato posto in liquidazione e tutte le aderenti, quindi tutte coloro che avevano aperto una posizione previdenziale con questo fondo, adesso hanno avuto trasferita la propria posizione nel fondo invece di Arca SGR, il fondo pensione appunto di questa società di gestione del risparmio, che ha sottoscritto un accordo con Federcasalinghe appunto per poter mettere in piedi questo discorso molto importante della pensione. Tra l'altro, noi continuiamo a dire per la casalinga, ma possiamo dire anche, presidente Rossi Gasparrini, per tutti i lavoratori familiari, perché qua anche un lavoratore atipico teoricamente potrebbe aderire a questo fondo. Esattamente, il fondo è nato per casalinghe e lavoratori atipici, quindi il lavoro accessorio, sì, per queste posizioni che non danno una garanzia certa, certo, di una pensione solida. Adesso è tempo di spiegare anche le cosiddette technicality del fondo, come si sottoscrive, quanto costa, quale linea di investimento ha, e intanto continuo anche ad osservare che ci sono molti ascoltatori che continuano a chiedere, ci fanno degli esempi pratici su come sia possibile anche, come dire, mettere insieme i contributi versati per la pensione pubblica e invece legare questi contributi ad un'eventuale pensione integrativa. Purtroppo abbiamo detto che questa facoltà non c'è nel nostro paese, e come dicevamo anche a microfoni spenti con Marina Vago, un bel tema, sarebbe una bella rogna di carattere politico questa. Vago, mi sta... Sì, assolutamente, condivido l'approccio. Purtroppo tocchiamo dei temi che sono anche di natura politica, che riguardano il welfare. Rimanendo sul tema della previdenza, è importante comunque evidenziare che indipendentemente da quello che è stato il passato di comunque attività lavorativa che ha svolto la donna fino a questo momento, nel momento in cui si rivolge poi ad un'attività da casalinga, è importante comprendere la necessità di intraprendere anche a piccolissime dosi di risparmio un piano previdenziale. Il piano previdenziale diventa veramente un salvadanaio, come diceva l'onorevole Gasparrini. Ovviamente è indipendente dalla cifra che la donna può destinare al proprio piano pensionistico futuro, però proprio nella logica di un piano di accumulazione consente, attraverso una gestione finanziaria che viene svolta ovviamente da un team di gestori dedicato proprio solo al fondo pensione, consente un accumulo, una rivalutazione del capitale che soprattutto nel momento in cui vengono scelte delle linee di gestione che sono più tranquille, addirittura quelle a capitale garantito, consentono una sicura convenienza economica. Non dimentichiamo che il fondo pensione aperto offre a tutti gli aderenti degli interessanti risparmi fiscali che sono molto molto importanti, e che soprattutto a fronte della scelta di linee garantite permettono senz'altro di avere un sicuro vantaggio economico. Rossi Gasparrini, tra l'altro mi stava segnalando la mia collaboratrice Gaia Romani che stanno chiamando molte donne che lavorano, e quindi a quanto pare non siamo riusciti a sollevare a sufficienza l'attenzione intorno alla figura della casalinga. Però prima di questo, prima di affrontare di nuovo e di rimarcare invece la necessità di porre un'attenzione su questo aspetto, qualora io fossi una donna lavoratrice e magari non ho un fondo pensione di categoria e non ho scelto lo strumento previdenziale appunto per costruirmi la pensione complementare, posso comunque aderire a questo fondo? Adesso che il fondo fluido in Arca si può. Adesso sì. Potevamo anche precedentemente, ma era complesso e forse c'erano dei dubbi. Oggi invece è possibile. Alle donne che lavorano fuori casa, ma che fanno anche poi la casalinga, perché questo è un ruolo che le donne, soprattutto chi ha famiglia, si assume o a tempo pieno o a tempo parziale. Ecco, voglio dire questo: se insieme riuscissimo a cambiare le regole del gioco sull'alternanza lavoro familiare, lavoro extrafamiliare, protette in ambito familiare ed extrafamiliare, questo sarebbe un passaggio valido per tutte le donne. Perché io ho le donne cinquantenne lavoratrici che vengono a dirmi: facciamo la guerra per andare in pensione a 50 anni. Perché? Perché sono così stremate, avendo condotto una vita mediazione costante tra il lavoro e cercare di essere brava sul lavoro, la famiglia e cercare di essere brava, tra l'altro sempre con sensi di colpa. Sì. Per cui arrivano a una certa età che invece potrebbero dare così tanto. Il fatto che, che l'età pensionabile della donna fosse stato più basso fino a questo momento aveva proprio questa ragione, naturalmente. Comunque andiamo al concreto, Rossi Gasparrini. Ma gli altri stati l'hanno risolta con delle politiche, quando esci sappi che puoi rientrare, perché ti aiutiamo con la formazione e ti aiutiamo a rientrare, perché le casalinghe vogliono lavorare anche per garantirsi il futuro della pensione. Questa angoscia della pensione io le confermo che le donne la vivono. Lo immagino, anche perché vivono più degli uomini, per cui poi magari si trovano ovviamente anche ad essere delle vedove, magari ancora in piena salute, e pertanto vogliono anche vivere dignitosamente, come ribadisco, con tutti i problemi, gli acciacchi che a una certa età arrivano, ed è chiaro che se hanno lavorato per la famiglia tutta la vita e si trovano anche ad un certo punto ad essere sole e senza un soldo, e questo è un problema, l'ho molto banalizzato forse, però il problema in soldoni è questo. Rossi Gasparrini, allora, sono una casalinga, voglio aderire al fondo Arca Previdenza. Devo andare da Arca o devo venire da voi? Può andare da Arca, può venire da noi o dai nostri patronati, perché abbiamo anche un patronato, e dai centri fiscali nostri, iscriversi. Stiamo costruendo tutto un sistema per cui facciano anche tutto online, chiaramente. Compilano una scheda, decidono quanto versare, di adesione 20 euro, ma poi decidono loro in che modo creare l'accumulo. Noi cerchiamo attraverso questo prodotto, che è la scontistica, che si è fermato, esatto, perché poi il momento è stato duro, però la scontistica ha un valore eccezionale. Se io compro un prodotto e mi fanno 100 euro di sconto, quel 100 euro li verso sul mio fondo Arca, valgono 140 euro, perché abbiamo ottenuto che siano considerati un versamento diretto, quindi deducibile. Allora invito le donne a chiamarci, a darsi da fare, a dare ai nostri patronati, certo, cioè ad essere attive, perché non arriva niente se non si lavora, se non si combatte. Questa è la cosa che io vorrei dire alle donne, anche per la pensione. Certo. Noi, lo strumento c'è, è un bello strumento moderno. Però se loro aderiscono ed entrano, lo faremo diventare uno strumento per cui il fondo pensione lo pagano con quell'attività che fanno. Le donne sono le responsabili d'acquisto della famiglia. Quindi c'è il contributo volontario, che è quello che una donna può essere in grado appunto di racimolare, per utilizzare un brutto termine, ma davvero stiamo parlando di cifre così basse che mi viene in mente solo questo termine. E poi si può alimentare con il meccanismo della scontistica presso centri commerciali. Dove, Rossi Gasparrini, tutti i negozi danno questa facoltà? Che cosa deve dimostrare la donna che ha aderito al fondo pensione? Ha una tesserina di scritta al fondo, e con la tesserina si legge sia alla cassa, in tutti i modi di oggi. Abbiamo una società di informatica così precisa che ogni euro lo fa vedere poi sulla posizione pensionistica. La signora può andare sul sito, guardare la sua posizione, vedere il tracciato dei suoi risparmi nei negozi. È bello, è chiaramente adesso da un anno l'abbiamo sospeso, stiamo stiamo ripartendo. Stiamo ripartendo. Però abbiamo Arca vicino. Diciamo. E infatti, no, tra l'altro Arca, adesso li volevo proprio sentire, perché anche per voi un modo sicuramente originale per ricevere le adesioni al fondo pensione e il modo con cui il fondo viene alimentato, che sicuramente non appartiene a tutti gli aderenti a questo fondo pensione. Per cui... Certo, per adesso è limitato ovviamente alle casalinghe ed è senz'altro una modalità innovativa di alimentazione del fondo pensione. Io volevo tornare un secondo su quello che era il discorso del vantaggio fiscale, sì. Perché secondo me è importante, al di là del fatto che il legislatore ha voluto incentivare molto l'adesione alle forme di previdenza integrativa, quindi agevolandole molto fiscalmente, però volevo sottolineare che i benefici fiscali possono essere sfruttati ovviamente sia da chi ha aderito, quindi in questo caso stiamo parlando della casalinga, oppure se la casalinga non ha reddito, i contributi versati ovviamente possono anche essere dedotti da quelli da quello che è il dichiarante, quindi colui che ovviamente fa la dichiarazione. E a questo punto, per cui guardi, le leggo subito la domanda di Sofia che ci scrive: sì. Sono una casalinga con 3 figli, ma soprattutto sottolineo di 32 anni, Sofia, che Dio la benedica per l'energia e la volontà che ha. Non ho mai lavorato, posso iscrivermi a un fondo pensione? Mio marito è lavoratore dipendente e io appunto 32 anni. Assolutamente sì, può iscriversi in quanto ovviamente casalinga grazie a questo accordo che abbiamo effettuato e naturalmente ribadisco, eventualmente i contributi versati potranno essere anche dedotti dal reddito del dichiarante qualora la casalinga non abbia reddito. È un punto importante perché spesso c'è questo scoglio proprio della possibilità di sfruttare appieno i vantaggi fiscali del fondo pensione. Invece lei mi diceva prima, perché mi ricordo che gli ho chiesto a microfoni spenti, le posizioni già aperte presso il fondo famiglia vecchio e che adesso in automatico o non so con che automatismo sono state trasferite al fondo nuovo, perché c'è Natale che ci scrive: ho versato 16 euro, non so se si abbia sbagliato la cifra, al vecchio fondo famiglia e ancora sono in attesa di risposta, cosa devo fare per partecipare al nuovo fondo? Ma dunque, in realtà il vecchio fondo famiglia ha scritto una comunicazione a tutti gli aderenti invitando a manifestare ovviamente la propria volontà di trasferire le posizioni maturate al fondo Arca Previdenza piuttosto che di procedere al riscatto. Quindi quello che deve fare è semplicemente di manifestare la propria volontà di adesione ad Arca Previdenza qualora effettivamente sia convinto di aderire ad una forma di previdenza integrativa. A meno che Natale non si riferisca al fondo INPS, che è la forma ancora precedente. Qua siamo in un territorio ancora più complicato, allora abbiamo bisogno di un minuto di tempo, quello dei suggerimenti per chi è in viaggio, per rifletterci, e poi ritorniamo anche alle nostre telefonate, mentre è cominciata a Palazzo Chigi l'incontro fra il governo e le parti sociali proprio sul tema della previdenziale di cui parlavamo questa mattina, l'emendamento in materia previdenziale, l'innalzamento appunto dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, emendamento che è stato presentato ieri dal governo al decreto anticrisi. Eccoci di nuovo a Salvadanaio. Allora, Claudio da Torino, buongiorno. Buongiorno Deborah, mi sente? La sento benissimo. Senta, forte e chiaro. Io vorrei fare 2 piccole osservazioni, anzi 3. La prima, la signora parla del beneficio fiscale, ma il beneficio fiscale non servirà per il montante, cioè per l'accumulo dei contributi versati sui quali si calcolerà la rendita per la nostra casalinga. La seconda, se non mi sbaglio, questo eventuale capitale accumulato costituirà appunto una rendita che sarà calcolata secondo dei coefficienti. Certo, coefficienti a livello di governo. I coefficienti di trasformazione come tutti... Esatto. Beh, quindi sia a livello INPS che a livello privato. Sono la bellezza di 10 anni che questi coefficienti non vengono rivalutati. Beh, adesso sono pronti alla revisione poi, tra l'altro. Secondo me, perché nessuno si prende il rischio politico di dire alla gente che comunque le loro pensioni saranno ancora più basse di quanto. Ma terza osservazione, ma su questo non sono d'accordo, perché lo stiamo dicendo credo in tutte le salse, per questo che stiamo facendo tante trasmissioni sulla previdenza complementare, prendendoci anche tante di quelle critiche che non le sto a dire, perché sembra sempre che stiamo a promuovere i soggetti privati che fanno questi prodotti e invece passa sempre il messaggio distorto, non si capisce perché, ma questa è una polemica mia. Terzo punto, Claudio. Ancora una piccola osservazione velocissima. Nessuno continua a dire, né dalla parte sindacale ma nemmeno dalla Confindustria, che le erogazioni dell'INPS saranno calcolate, le future, sul nuovo sistema sulla media 5 anni dell'incremento del PIL. Quest'anno facciamo meno 5 se non meno 6. Ce lo trascineremo per 10 anni. Per 10 anni le pensioni non saranno... Claudio, mi fa un legame con il tema di questa mattina, cortesemente? Ma il tema di questa mattina è che comunque, secondo me... Una situazione come quella di prima, della casalinga di 32 anni, con un marito monoreddito, se dovesse iniziare ad effettuare un accantonamento serio, probabilmente il reddito familiare non è assolutamente in grado di farlo. Infatti, infatti questo è il problema grosso. Ma Federcasalinghe ne è perfettamente consapevole. Tant'è vero che il primo fondo pensione famiglia ha avuto l'insuccesso che ha avuto proprio per questo motivo, perché non si è nelle condizioni di poterlo alimentare in maniera dignitosa. Detto questo, da qui arrivare a non prendere per niente coscienza del fatto che comunque qualche cosa si può accantonare è un altro discorso. Quindi, quantomeno ci si prova. Comunque, Claudio, io prendo atto di tutte le sue osservazioni e la ringrazio moltissimo. C'è la domanda molto bella invece di Renato da Rimini, che sempre in prospettiva è molto più concreta. Renato. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Praticamente sì. Sì, siccome ho sentito piccola parte della trasmissione, sì. Però siccome ho sentito parlare anche di fondi privati, ho sentito parlare di Arca, vabbè, a parte il nome del fondo, la mia domanda era questa. Se è possibile avere un'idea, io ce l'ho ovviamente, per una pensione di 300 euro al mese, sì. Che deriva dal cumulo su un fondo di questi... Sì, sì, in questi fondi aperti, sì. Ancorché deducibili, che è forse l'unica cosa interessante. Ecco, per avere 300 o 250 euro al mese, se i loro signori che propongono queste cose hanno idea di quanto in valore assoluto, più o meno... Bisogna versare per quanti anni, certo. Aver accumulato. Renato, questo tra l'altro, a parte il fondo, diciamo, di Arca, del fondo della Federcasalinghe, è il grande tema della previdenza complementare, stabilire quanti anni mi servono per poter avere una rendita di un determinato tipo. Renato fissa a 300 euro quello di cui avrebbe bisogno, non so se parlasse per lui, Marina Vago. Allora, come si fa a stabilire quanto potremo avere dopo 10, 15, 20 anni di versamenti? Sì, allora, siccome per poterlo stabilire con precisione dipende da quanti anni mancano al pensionamento, da quello che è l'attività lavorativa svolta fino a questo momento, da quello che è quanto si è disposti ovviamente a versare, no? Allora, Arca ha realizzato proprio sul proprio sito un tool, un simulatore che si chiama Che pensione avrai, dove ovviamente immettendo i propri dati personali, il potenziale aderente potrà riscontrare quanto deve versare per poter avere al termine dell'attività lavorativa quella somma necessaria per coprire il gap tra il tenore di vita desiderato al momento del pensionamento e quello che è la pensione pubblica. Questo è un primo simulatore che permette appunto di capire quanto devo versare per poter integrare la pensione pubblica. E poi naturalmente, per correttezza, dico che tutte le società che operano nel settore della previdenza complementare, più o meno comunque le più organizzate, le più grandi, hanno la possibilità di fare queste simulazioni con dei software molto, molto bene architettati e attrezzati, per cui non è solamente un'esperienza di Arca, sì, sì, naturalmente. Certo, assolutamente. Come d'altra parte, con il progetto esemplificativo, che è un altro simulatore che ovviamente è disponibile per tutti, pubblico sul sito, c'è proprio la possibilità di capire, di fare una simulazione su quello che potrà essere appunto la propria pensione al momento del pensionamento, quindi la rendita stimata derivante dalla adesione ad una forma di previdenza integrativa. Forse la telefonata precedente voleva avere qualche dettaglio in più sui benefici fiscali. Sì, cercherò di essere flash da questo punto di vista, però volevo dire che almeno tre benefici fiscali sono da evidenziare. Allora, innanzitutto è da dire che si può dedurre dall'IRPEF fino a 5.164 euro ogni anno, e naturalmente con un risparmio fiscale che oscilla tra circa i 1.187 e i 2.200 euro in funzione della propria aliquota fiscale. Secondo vantaggio fiscale, i rendimenti generati dal fondo pensione sono tassati a circa all'11% sì. contro il 12,5% normalmente della e maggior parte di strumenti finanziari. Sì. Terzo e importante vantaggio fiscale è che la rendita o il capitale, che sono appunto le prestazioni al momento del pensionamento, sono tassati con un'aliquota massima del 15% che si applica ovviamente ai redditi che non sono stati tassati in precedenza. E c'è un ulteriore sconto su questo 15% a partire dal 15° anno di adesione al fondo, per cui c'è uno 0,30 ulteriore di sconto che arriva fino ad uno sconto complessivo ulteriore del 6%. Allora, l'ultima telefonata di oggi, sperando di aver convinto Claudio da Torino, ma insomma il tema si presta molto spesso a tutte le perplessità di tutti, hanno anche ragione, insomma abbiamo questo spettro di una pensione che ci verrà quasi completamente a mancare nel futuro, per cui è anche tutto molto comprensibile, anche tutto lo scetticismo. Roberto dalla provincia di Vicenza, l'ultima telefonata di oggi, rapidissimo se può, la ringrazio molto. Sì, buongiorno signora Deborah. Sì. Complimenti per la trasmissione, perché io seguo sempre quando posso. Guarda, grazie, grazie Roberto. Vada la domanda, io le credo. Senta, io volevo dire una cosa, ma per quelle persone che non riescono a poter, se non si possono permettere per motivi perché hanno tre figli oppure c'è un monoreddito e via discorrendo, fare una previdenza complementare, ma non ci potrebbe essere la possibilità dell'assegno alle casalinghe che svolgono un lavoro di primo piano, non solo per tutta la nazione, per il paese intero, allevando i figli per bene, eccetera, eccetera. Roberto, lei guardi, allora adesso lei ha posto un tema talmente largo, ma credo che è il tema di partenza della nostra trasmissione. Allora io ho 40 secondi di tempo, purtroppo molto pochi per Federica Rossi Gasparrini, per concludere. Lui dice, ma insomma, se uno fa, il tema è di persone che non possono permettersi di andare a lavorare, ma che devono, non è detto poi, magari uno fa anche per libera scelta di stare a casa, questo è scontato, però vogliamo mandare un ultimo messaggio, Presidente, a Roberto della provincia di Vicenza. Velocissimo, è Roberto sì. che si viene a fare il Presidente di Federcasalinghe. onorario. Il secondo, che comunque noi stiamo lavorando per avere, con l'aiuto dell'Europa, dei vantaggi per le donne che scelgono la maternità a tempo pieno, in modo che siano donne tutelate, però di quale donne ci dovete aiutare. Noi miracoli da soli non siamo in condizione. Infatti, grazie. Grazie ad Arca abbiamo un bellissimo alleato. Benissimo, allora tra l'altro per chi ci chiede dove possiamo reperire informazioni su tutto quello di cui avete parlato di questa mattina, ci si può rivolgere ad Arca SGR, trovate sul vostro sito, oppure dal sistema bancario, Marina Vago? Sì, allora il sistema bancario sul sito arcaprevidenza.it trovate tutti i riferimenti sulla rete di collocamento. Però, e anche ovviamente presso le sedi di Federcasalinghe. Benissimo, perfetto, questi sono i riferimenti principali. Scriveteci se non avete capito, non siete riusciti a prendere appunti, a Salvadanaio. Noi intanto torniamo domani, grazie a Federica Rossi Gasparrini e Marina Vago, buona giornata a tutti.